The powerful drugs of the violence. The powerful drugs of the violence. Of the violence. Of the violence. Prima guardia mia, tanto ci sei morire. Mi barra la rabbia, mi stigabbia, narcotici di violenza. E poi si spara.